musicalul. Musicalul. Musicalul. Quando i banana lo vedi nel cortile, con la pioggia o con il sole, a suonare le scintille, e tutti quanti dicono, banana non ci sto a scassare la minchia, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare. Questo è il mio lavorare, il mio svago, il mio lavoro. Dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare, dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare, dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare. Le macchine che passano non si accorgono che il loro rumore dal banana è fatto risuonare. E la borsetta rossa, ma che bel colore, è già un quadro. E l'auto se ne va, e santo noi sarà Riccardo. Della sua esperienza, tutto il suo essere dentro in una birra. E il Jonathan studia musica la birra, con le bottiglie, studia la composizione della birra. Ma qua bisogna lavorare, studiare cos'è l'arte, il fuoco contemporanea, che è entrato l'arte nel contemporanea, corpo di Ajax contemporanea, e poi l'arte da contemporanea, no, l'arte anzi, contemporanea, Braque, l'arte cubismo, contemporanea, Picasso, l'arte il contemporanea, l'arxus, il contemporanea, e tu, l'art, e il Catalan, e Bicroft, e le foto, e il video, e tutto, la passeggiata, il niente, il vuoto, il pieno, il bianco, lo scuro, il vuoto, il cortile, è tutto contemporaneo. Anche Jonathan che sta soltanto salutando, contemporaneo, è tutto contemporaneo, siamo tutti contemporanei, siamo tutti contemporanei, tutto è contemporaneo, contemporaneo. Anche questa canzone è abbastanza contemporanea. Scappa dal contemporaneo, Jonathan scappa dal contemporaneo. Jonathan saluta, saluta il contemporaneo. Jonathan saluta, saluta il contemporaneo. Però la sua intenzione è mediterranea, la sua zona solarità mediterranea e contemporanea. Dice di essere piovoso in una giornata con un sole mediterraneo. Dice di essere aereo, ma anche terraneo, terraneo, il razionalismo era di terragni, il ragno che scalava su una scala contemporanea, un ragno scalava una scala contemporanea, il tempo è sempre contemporaneo. Tutto fu